se mi permettete di continuare con questa incoerenza, come barcollando, aggirandomi un poco a tastoni in una foresta di associazioni. Oggi volevo iniziare con un testo molto conosciuto di Thomas Stearns Eliot, il suo più noto, quello che inizia con le parole "April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain." Aprile è il mese più crudele, genera l'illà da terra morta, confondendo memoria e desiderio, risvegliando le radici soppite con la pioggia della primavera. L'inverno ci mantiene al caldo, ottuse, con immemore neve la terra, nutrì con secchi tuberi una vita misera. L'estate ci sorprende, giungendo sullo Starnberger Sea con uno scroscio di pioggia, noi ci fermammo sotto il colonnato e proseguimmo alla luce del sole nel Hofgarten e bevemmo caffè e parlammo un'ora intera. Primavera 2020, una primavera che non sembra poter fiorire, o che fiorisce senza testimoni, o che fiorisce senza spettatori, senza di noi, senza i nostri occhi. Per i cristiani una Pasqua senza resurrezione, una Pasqua senza resurrezione sembra essere questa. Aprile, il mese più crudele, che genera l'illà da terra morta, confondendo memoria e desiderio, risvegliando le radici soppite con la pioggia della primavera. Thomas Stearns Eliot, per qualche ragione incomprensibile perfino a me, mi viene in mente un'altra poesia assai nota fin dai tempi della nostra adolescenza scolastica, che torna su questo tema della Pasqua senza resurrezione, della primavera senza fioritura, della giovinezza senza erotismo, senza incontro, o piuttosto di una vecchiezza nostalgicamente rivolta verso un tempo che non può tornare. Guido Cavalcanti. Perch'io non spero di tornar già mai, Ballatetta, in Toscana, vai tu, leggera e piana, dritta la donna mia che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri piene di doglie e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu saresti ripresa tanto da lei contesa che mi sarebbe angoscia dopo la morte, poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, Ballatetta, che la morte mi stringe, sì che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco quando uscirà dal core. Beh, Ballatetta, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando, mena la teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando, debba la detta dille sospirando quando le sei presente. Questa vostra servente vien per istar con voi partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che sci piangendo dal corpo lente con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente, voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima e tu l'adora sempre nel suo valore. Guido Cavalcanti, una delle poesie più struggenti che io conosca, una poesia che sembra raccontare di un amore che non ha speranza, che non ha futuro, che non può che essere consegnato alle parole. E poi un poeta poco noto, Camphor Barder, che scrive poesia, non so che cosa scriva Camphor Barder, e Premonizioni d'Antan. E questa è l'ultima proposta che voglio farvi oggi. La campagna toscana corre là fuori sotto un cielo fosco di nuvole e di pioggia. Torno. Il viaggio mi tolse le ultime speranze. Ora conosco il mio destino e l'euforia mi acceca. Chi nella vita spreca le occasioni migliori neppure se ne accorge, non lo sa, non lo vede, non gli importa. Dicono che sei morta per un tumore, come accade a tanti. Immagino i tuoi giorni ultimi, forse i pianti di qualcuno che amavi. Nulla so dei tuoi anni, né quel che ti è accaduto in questo tempo. Quel che adesso rammento, confuso, è una domenica mattina quando andammo a Milano per comprar l'eroina in un quartiere vuoto di proletari senza più speranza. Ricordo che al ritorno, nel vuoto desolato delle stanze, provammo quella roba sordidamente livida, sognante, e sentimmo il futuro come un lattiginoso ampio destino senza alberi né piante. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Tutti ricordano che si tratta di un verso del quinto canto dell'Inferno dantesco, quando Paolo e Francesca raccontano del loro innamoramento, raccontano del momento in cui, dopo aver letto il libro Galeotto, la storia di Lancillotto e Ginevra, lasciamolo dire al poeta. Si tratta di uno dei brani più noti del poema dantesco. Non pretendo di sorprendervi, ma è questa la poesia che ho letto prima. Finisce ironicamente con un verso grandissimo: e quel giorno più non vi leggemmo avanti. E quindi mi è venuto in mente la

Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da loro ci furono porte. Quando io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri e quella a me? Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietà io venni men così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Quello che mi ha sempre commosso in questo canto quinto dell'inferno, in questo brano dedicato all'amore trasgressivo, all'amore adultero di Francesca per Paolo e di Paolo per Francesca, quel che mi ha commosso è sempre un fatto apparentemente marginale, come marginale, centralissimo. È lei che parla mentre Paolo rimane in silenzio e piange, mentre che l'uno spirito questo disse, Francesca racconta il loro tremante incontro, la lettura dell'amore di Lancelotto per Ginevra, questa loro lettura in comune, in un luogo nel quale si sentivano sicuri prima che la porta si aprisse, l'orrendo marito di Francesca entrasse, Caina attende chi vita ci spense. Ma ecco, questa lettura galeotta, questa lettura che conduce al bacio, quando leggemmo il desiato riso esser baciato da contanto amante, costui che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Ecco, è lei che racconta, è Francesca. Francesca, forte nel suo dolore, nel suo amore. Sono lì ancora, l'inferno, il Padre Eterno è buono, il Padre Eterno non è così cattivo come pensavamo, il Padre Eterno ha concesso a Paolo e Francesca di vivere insieme per l'eternità. Che c'entra tutto questo con la pandemia, con il tempo della quarantena? Ma naturalmente non c'entra niente. La poesia non c'entra mai niente. La poesia non c'entra niente. E proprio per questo in ogni momento di poesia si può ritrovare tutto, no? E l'interpretazione consiste appunto in questo vagare liberamente, scivolare da un piano dell'interpretazione all'altra, senza ragione, ma con una ragione profondissima che sta per l'appunto nel carattere infinito dell'interpretazione. Ecco allora che c'entra, c'entra, come non c'entra, c'entra. Questo amore che dura per l'eternità e invece, nel caso di Guido Cavalcanti, questo amore che sa di non potersi mai riunire, incontrare. Ecco, questi sono i giorni in cui gli amanti separati non si incontrano. Quanto a lungo durerà questa attesa, questo desiderio? Usciremo la notte mascherati per raggiungere l'amante disiata? Non sempre sarà possibile, in alcuni casi non sarà possibile del tutto. E poi gli amanti innumerevoli che camminano per la città e che noi non possiamo baciare perché abbiamo la mascherina. Questo mi viene in mente leggendo Eliot, Cavalcanti, Dante.